sei tu, io scrivo. C'ho ansia. Dai, Sami. Allora, abbiamo scoperto che in un ambiente così non è molto grande, ma si possono sentire vari suoni da molte diverse varietà di suoni. Acqua. Ed il rumore della macchina. Sirene, abitanti, uccelli, acqua, passi, voci, cani. Di una sound walk che abbiamo fatto. Allora, come scoperta, in ogni punto del mondo dove andiamo si possono sentire i vari tipi di rumori, molto diversi e anche se sembrano uguali, anche diversi tra loro. In qualsiasi posto ci sono suoni.